Eccoci qua, ore 21 in punto, qui a Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia anche per questa sera, per questo 13 marzo 2019, l'ennesimo appuntamento di prove tecniche di trasmissione, in onda sino alle 22.30. Il palinsesto prevede 25 o'clock. Naturalmente lo 0649 1750, il contatto telefonico www.ondarossa.info, è il sito utile anche per usufruire del nostro streaming. ondarossa@ondarossa.info è l'indirizzo di posta elettronica. In questo momento stiamo anche usufruendo di una pagina Facebook. E domani prove tecniche di trasmissione /disorder, la pagina Facebook di riferimento, apparirà in questa pagina playlist e podcast di questa puntata. Un saluto a Tania qui a Roma, Like Wake, Rodrigo Passannanti in quel di Londra, il medico della peste. Ci sono anche problemi con questo social, con Facebook, problemi di proprio nello scrivere, per cui se c'è qualche pausa non dipende dal sottoscritto, ma da un problema che è proprio la pagina Facebook stessa da da un po' di tempo, da oggi pomeriggio. Un saluto anche a Raffaele Pezzella in quel di Napoli. Vita Archivet di Desideri Marginis, e questo è la prima proposta di questa sera, un punto di riferimento della scena dark ambient della Scandinavia, che come tutti sapranno ha un'enorme tradizione. Le vecchie uscite della Cold Meat Industry e quelle attuali della Cyclic Low, molti artisti sono trasfugati lì, tra cui Desideri Marginis nella persona di Johan Levin. Ci ascoltiamo il brano che chiude questo lavoro del 2018, uscito in due versioni, anche una autoprodotta dallo stesso Desideri Marginis. Un lavoro che si chiude con Yugi. l'ennesima buona prova di Desideri Marginis attraverso questo Vita Archivet, un ultimo lavoro uscito sul finire dell'anno scorso. Johan Levin, lo ricordiamo ancora, in molti album al suo attivo. Ormai effettivamente non è il massimo della originalità, ma la cosa importante è che faccia vibrare i sensi nel sentire questi bellissimi tappeti così evocativi e rarefatti. Si è aggiunto anche Jean-Claude Berthaud dalla Val d'Aosta, non so se proprio da Aosta o da qualche bellissimo paesino di quelle parti. Ormai anche lui è un fedelissimo di questi spazi. Vorrei ricordare ancora una volta questa campagna di crowdfunding del nostro radioabbonamento, questi 30 euro annuali da proporre a 1000 ascoltatori per avere una entrata fissa che ci permetta di gestire al meglio questo spazio di libertà anche creativa. Si va sul banner che sta nel sito della radio, si clicca e ci sono le varie modalità di adesione. Ci sono ancora circa 2 mesi di tempo per farlo. Arriviamo qui in Italia, continuiamo ad ascoltare ed apprezzare questo ultimo lavoro per i milanesi Dolpo. Ricordo ancora una volta, Dolpo è una delle regioni più deserte del Nepal e quindi non è un caso che abbiano scelto questo nome, perché in parte c'è anche un aspetto etnico in questo progetto, in questo lavoro. Un lavoro che in maniera chiara si chiama Inner Himalayas, quindi anche, come dire, un approccio esoterico permea le 5 tracce che lo compongono. Questa sera è il turno di Sikkimese Monastery con anche la voce di Naresh Ran della Diodron, fondatore di un'etichetta Diodron per la quale esce anche questo lavoro, e poi l'ultima traccia, Self Exile. Un bellissimo finale per quanto riguarda i Dolpo con questo In Himalayas, un album che alterna voci salmodianti con rasoiate tra il doom metal e il noise, quindi una azzeccatissima fusione di umori così diversi ma che sono perfettamente armonizzati in questo In Himalayas. Un quintetto milanese, questi Dolpo, che esce anche attraverso la Diodrone, come dicevo, che è un'etichetta di Firenze. Leggo una cosina veloce per quanto riguarda proprio la Diodrone, un nome che è nato in seguito a una denuncia. Il termine infatti Diodrone suonò subito come qualcosa di incompreso e allo stesso tempo blasfemo e potente, come un punto di rottura. Sotto questa parola suoni e arti diverse trovano un riparo accogliente e vi si riuniscono come una congrega e come una famiglia di emarginati, una terra di nessuno in cui i progetti sperimentali coesistono e ballano insieme sotto stelle scure. Bellissime parole, devo dire, per una presentazione efficacissima per la Diodrone di Firenze. Un saluto anche a Frederick Iriarte di Unix 6, anche lui alle prese con problemi di social, ma noi la salutiamo, forse ci sta ascoltando in ogni caso. Un saluto a Frederick Iriarte dalla Svezia. Andiamo avanti con una novità a me molto cara, un disco che attendevo da molti molti molti anni, e trattasi dell'ultimo lavoro dei Test Department. Si chiama Disturbance, un album che esce dopo 21 anni di silenzio, anticipato da qualche rara esibizione live. Io fortunatamente ne ho viste ben due in Germania, ovviamente qui in Italia ce la sogniamo per adesso. E tornando a questo Disturbance, un album che unisce gli iniziali Clan Glory industriale con l'elettronica tipica delle ultime produzioni prima della lunga lunga pausa. Ci ascoltiamo Full Spectrum Dominance. si saluta di nuovo Maya. Maya anche lei alle prese con qualche problema di comunicazione. E anche Jean-Claude Bertaud da Sarre, piccolo paesino della Val d'Aosta. Sarre o Sarre, probabilmente Sarre. Loro invece erano in Test Department da Disturbance, questo splendido, ma magari splendido no, però un bel disco, un ottimo disco devo dire. Per Test Depth forse ci hanno abituato troppo bene in passato, ma comunque un'uscita da annoverare. Salutiamo anche Nicola Locci, Stigmate e Hexagonal dalla Sardegna, le consuete percussioni che dominano il profilo di questo album, suonate anche da Graham Cunnington e Paul Germosi, gli unici due superstiti della vecchia guardia Test Depth, che ovviamente si alternano anche le macchine, e poi una serie di musicisti giovani delle new entry, parecchi, ma il nucleo base rimane comunque Graham Cunnington e Paul Germosi. Disturbance, lo ascolteremo anche la prossima settimana. È giunta l'ora di Electro Framework, un compendio suntuoso e lungo di Arefale Pezzella, la scena mondiale elettroacustica, un grosso calderone che comprende tanti tanti artisti. Concludiamo questo lungo viaggio che ci ha caratterizzato in questi mesi con Giorgio San Cristoforo. Ne so poco, ma sicuramente italiano, e sicuramente Raffaele Pezzella metterà qualche nota mentre io lo mando. È una traccia dal nome Ausstrahlung. Quando l'ho conosciuto sono letteralmente rimasto a bocca aperta quando ho conosciuto questo Giorgio San Cristoforo. Artista proveniente da Milano, un grosso cervellone a quanto leggo, grazie alle preziose note di Raffaele. Ideatore anche di molti software nel campo della musica, ma non solo. Anche giovane, del 74. Ha un profilo Bandcamp dove mi riprometto anche di andare, perché mi ha colpito molto, devo dire, devo ringraziare Raffaele Pezzella di avermi messo a conoscenza di Giorgio San Cristoforo. Lasciamo Electron Framework, intanto sono le 21:48 qui dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Bella questa traccia, perché un'iniziale atmosfera quasi nebbiosa, crepuscolare, una parte interessante con degli sbocchi sperimentali intensi, per poi terminare come l'inizio. 12 intensissimi minuti per Giorgio San Cristoforo. Dunque, andiamo avanti e lo facciamo con Darkening Linclair, un nuovo progetto che abbiamo conosciuto grazie a Giulio De Mauro, instancabile agitatore culturale qui di Roma. Un progetto formato da Andrew Lilis di Nars With Wound e Sven-Erik Futz Christiansen, ossia Maniac, ossia la voce dei Mayhem, quindi una coppia bizzarra, se vogliamo. Due mondi musicali abbastanza diversi, che però riescono a fare questo Darkening Linclair, che consiste fondamentalmente in manipolazioni della voce di Maniac, manipolate in salsa glitch dallo stesso Andrew Lilis. 7 tracce da 7 minuti cada una. E quindi noi cominciamo con conoscerlo, questo Darkening Linclair, con Emperor. Emperor. Emperor. Thank you. Salutiamo dunque con indubbio interesse questo lavoro di Andrew Lylis di Nars With Wound, quindi non ha bisogno di presentazioni, insieme a Maniac. E insieme fanno questo interessantissimo album, Darkening Lanclair, imperniato sulla destrutturazione del suono e in primis della voce gutturale di Maniac. Un'operazione svolta dalla Archaeological Records, etichetta qui di Roma, proprio di Giulio De Mauro, che salutiamo qualora sia all'ascolto. Un album particolarissimo che sentiremo anche le prossime settimane, perché merita effettivamente una più vasta conoscenza. Consiglio dunque ad andare sul profilo Bandcamp della Archaeological Records. Si trova questo e anche un lavoro di Alos di Stefania Pedretti. Quindi ci muoviamo nel campo della sperimentazione più estrema. A Andiamo in torniamo anzi in Svezia. Lo facciamo con Nordvarger, altro pezzone di storia, questa volta con MZ412, un graditissimo ritorno anche questo. Erano parecchi anni che non usciva attraverso questo progetto. L'album in questione è Svartmirker, che riprende in parte proprio le atmosfere soliste di Nordvarger, con un suono leggermente più carico e più noise. Ci ascoltiamo Codex Mendacium Ulvens Brother. And you're wrong.